Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ci sono anche le vacanze nel libro con il quale comincio oggi, quello di Enrico Brizzi, La legge della giungla, pubblicato dalla Terza, 302 pagine, 14 euro. Brizzi, come ricorderete, è diventato famoso da giovanissimo per Jack Frusciante uscito dal gruppo e poi ha proseguito la sua carriera letteraria specializzandosi in un duplice filone, quello dei libri ispirati alla passione per il camminare, per il trekking, e l'altro su un'Italia fantastica che non sarebbe stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Con questo libro torniamo alla quasi attualità, con la vita e le esperienze di un bambino bolognese, lo stesso Enrico, che corona il sogno di entrare a far parte dei Boy Scout. E qui nel libro troviamo la cronaca, tra il divertente e il nostalgico, della vita a Bologna dalla metà degli anni 70, in un'Italia scossa da grandi tensioni sociali e politiche che naturalmente non turbano più di tanto la vita nel complesso serena del protagonista e dei suoi amici che vivono e giocano nel cortile del blocco IACP, che vuol dire naturalmente Istituto Autonomo Case Popolari. Adesso a lui, a Enrico Brizzi, e rivolgiamo qualche domanda su questo libro. Buongiorno a Enrico Brizzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Enrico Brizzi, a chi si rivolge questo libro, La legge della giungla? Più ai genitori o ai ragazzi che vogliono fare i Boy Scout? Devo dire per la verità che si rivolge a tutti quelli che hanno avuto tra i 4 e i 12 anni, sia che siano stati scout, sia che abbiano percepito una giungla di altro genere intorno a sé. La giungla di cui parlo è in particolare il contrasto fra l'educazione familiare matriarcale che invita a porgere l'altra guancia, essere sensati, misurati, eccetera, e la legge delle giovani conventicole di soli maschi, diciamo, le bande del cortile, dell'asilo, eccetera. A un certo punto il narratore trova la sua dimensione nel gruppo dei lupetti, dei giovani scout. Dunque, che cosa rappresenta per Enrico, il protagonista, l'affiliazione ai Boy Scout? Ma rappresenta un desiderio, perché vede i ragazzini più grandi che possono farlo e lui invidia molto i loro berretti eleganti come quelli delle gialle inglesi, e il fatto che, come ogni banda che si rispetti dal suo punto di vista, siano dotati di una divisa, distintivi, eccetera. È qualcosa che può affascinare i bambini più piccoli. In realtà, quando il narratore si trova dentro il branco Candida Luna, che è il nome della città che lo accoglie, impara a conoscere anche altri aspetti della faccenda, in particolare il fatto che, a differenza di quello che appare con i genitori o i maestri, insieme a quelli che lui chiama i vecchi lupi, cioè gli adulti responsabili del suo branco, si rende conto che anche insieme agli adulti o a certi adulti la vita può essere un gioco, oltre che naturalmente insieme ai propri pari, ai bambini come lui. Il suo libro si conclude dicendo che lei entra in un negozio per comprare la divisa a sua figlia, quindi è rimasto molto fedele allo spirito dei Boy Scout. Sì, mia figlia è partenza in effetti per le vacanze di branco, è una lupetta, ha tutti i patemi d'animo del caso, per il fatto che se ne starà lontana per la prima volta. Però credo che siano delle prove giuste, adatte da affrontare. Anch'io mi ricordo che la prima volta che sono partito ero leggermente preoccupato e al ritorno invece ero soprattutto stupito dal fatto che i miei genitori sostenessero che sul primo momento non mi avevano riconosciuto, mi avevano visto così cambiato in una settimana, e ne provai ovviamente una certa fierezza, come può capitare a 8 anni. E questo di Enrico è anche un libro di iniziazione e di maturazione che avviene molto, come lei ricordava, nei cortili all'aria aperta. Ecco, questo clima è ancora possibile nella Bologna, nell'Italia di oggi, o prevale il mondo virtuale nei bambini di oggi, secondo lei? Ma io sono il primo a ricordare con una certa nostalgia, anche se questo mi fa naturalmente sentire anziano, il fatto che appena 30 anni fa si girasse normalmente in bicicletta a Bologna, mentre oggi è considerato molto rischioso farlo fare ai bambini. C'è più traffico, ci sono più paranoie probabilmente, per un motivo o per l'altro non si vive più, credo, la dimensione del cortile, la dimensione della una certa socialità scolastica, è possibile possibile solo forse in determinate situazioni, non in tutte, e quindi a maggior ragione secondo me i bambini hanno bisogno, per fuggire dal riflesso virtuale, dal riflesso solo televisivo, solo informatico della vita, qualcuno che li aiuti molto semplicemente a esplorare l'altrove, a conoscere i posti lontani da casa. Casa propria la conoscono fin troppo bene, quindi non vale la pena, secondo me, di tenere i più giovani ancorati a casa solo perché è più sicuro. Ci possono essere dei modi piuttosto sicuri di affrontare il grande spazio che c'è fuori dal nostro quartiere, fuori dalle nostre città, e far vivere ai bambini la sensazione di essere un po' degli esploratori, di vivere delle avventure, di vivere delle avventure sotto il sole e sotto la pioggia, non soltanto uccidendo tutti i cattivi del 34esimo muro per passare al 35esimo livello. Nella cronaca della vita di Enrico ci sono vari accenni, naturalmente, alla cronaca anche politica, che sono anni molto difficili, con stragi, con momenti di grandissima tensione. Ecco, questi momenti di tensione sembrano rimanere un po' sullo sfondo anche in una famiglia che è divisa al proprio interno tra comunisti e cattolici. C'era una maggiore serenità anche da questo punto di vista in famiglia allora? Ma credo che Bologna sia stato un punto tra una certa morale del PC e una certa morale democristiana moderata, diciamo. E quello che qui si diceva, cioè la distanza, l'idea che questi eventi arrivino in maniera soffusa dentro casa, corrisponde, io credo, alla necessità di andare avanti, alla necessità di non turbare troppo i bambini da parte dei grandi di casa, bambini che sono già abbastanza inclini a stupirsi all'idea che esploda un'arte intera della stazione centrale della propria città con la gente dentro, che mentre ci sono gli zii a cena e mancano pochi giorni a Natale, sono passati appena 4 anni, passi una sequela ininterrotta di ambulanze, mezzi di soccorso lungo la strada maestra sotto casa, ed è per andare ancora una volta a soccorrere vittime di un attentato, questa volta nella galleria dell'Appennino, e non c'è alla fine per vedere, anche se Bologna è l'unica città nella quale io sia cresciuto, niente di ovvio nemmeno nel continuare a crescere, rendersi conto che la più feroce serie di omicidi che ha insanguinato la tua città è stata compiuta da esponenti deviati e criminali delle forze dell'ordine, parlando ovviamente della Uno Bianca. Non pretendo che sia la storia di tutti questa, però credo di restituire abbastanza bene il clima, una famiglia in cui episodi del genere arrivano a turbare la serenità, ma poi alla fine quello che ti dicono i genitori è non ci pensare, vedrai che li prenderanno, cercano di rassicurare i figli. Probabilmente si preoccupa molto di più di queste cose quando i figli si hanno, piuttosto che quando si è ragazzini e pensi sempre di averla scampata. Grazie a Enrico Brizzi, autore della Legge della Giungla. Buona domenica. Buona domenica a voi. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un romanzo di Georges Simenon, che non ha nulla a che vedere in questo caso con Maigret, la storia di una coppia di amanti, con lui responsabile di un terribile incidente che provoca la morte di molti bambini, un evento che egli cerca di trascurare ma che avrà un impatto devastante che naturalmente Simenon sa condurre alle estreme conseguenze. Il libro si intitola Il Complice, pubblicato da Adelphi, che sta ripubblicando tutto Simenon, 158 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Laura Frausin Guarino. Un altro grande nome della letteratura che però diventa protagonista di una serie, in questo caso di gialli, è Jane Austen. Un'autrice, Stephanie Barron, si è impossessata di Jane Austen per farne la protagonista di una serie, appunto, di indagini, di polizieschi, e adesso esce una nuova avventura, Jane, l'eredità di sua signoria, pubblicato da Tea, 280 pagine, 13 euro, tradotto da Alessandro Zabini. E infine un nome noto della cultura italiana, Ermanno Olmi, di cui Archinto pubblica la sceneggiatura dell'ultimo film. film che era stata elaborata con la collaborazione di Claudio Magris e Gianfranco Ravasi. Si intitola Il villaggio di cartone, 94 pagine, 12,50 euro, e il libro, come ricorderà chi ha visto il film, mette in scena il trauma di un vecchio prete alle prese con la trasformazione della sua chiesa in un centro di accoglienza per i diseredati che egli curerà con amore sino a recuperare una fede autentica. Il libro ha una prefazione di Vito Mancuso, il cui ultimo libro si intitola Obbedienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza cristiana, questo è pubblicato da Fazzi, 206 pagine, 15 euro. Mancuso è un teologo molto celebrato che cerca la vera liberazione personale nella bontà dell'intelligenza, per usare una sua espressione, due termini di cui il cristianesimo, secondo Mancuso, è teoria e pratica, e qui l'autore svolge le sue considerazioni nel filone che gli è proprio, piuttosto critico naturalmente nei confronti di molte visioni tradizionali della Chiesa. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di alcune mete che potranno essere utili per le nostre scelte di queste settimane. Cominciamo da quella probabilmente più popolare gettonata in questo periodo, Londra, dove venerdì si aprono i giochi della 30ª Olimpiade dell'era moderna. E allora vi segnalo il libro di Michele Monina, Londra è un orologio, è pubblicato da Laurana, 154 pagine, 9,90 euro. L'autore confessa di conoscere Londra come le sue tasche e allora mette a disposizione di tutti questa sua sapienza, facendo riferimento all'anatomia che lo aiuta a destreggiarsi nella grande città, e quindi la testa richiama la cultura, il naso l'orientamento, lo stomaco il cibo, le orecchie la musica, il cuore la gente e così via. E insomma, questa trasposizione anatomica ci offre una guida molto insolita e utile alla città. Dello stesso autore, presso lo stesso editore, è uscito Barcellona ti sorride, 154 pagine, 9,90 euro, che è il terzo di questa serie annunciata di 12 volumi. Questo volume dedicato a Barcellona ricorda il mito dell'atmosfera leggera e accogliente, come la definisce l'autore, che ha decretato il successo presso un'intera generazione della capitale catalana. Per chi voglia sapere proprio tutto dei moderni giochi olimpici, segnalo Olimpiadi di David Goldblatt e Johnny Acton, pubblicato da ISBN, 284 pagine, 12 euro, tradotto e adattato da Pietro Formentoni e illustrato da Belinda Evans. Il libro tiene fede al sottotitolo, tutto quello che dovete sapere per godervi al meglio l'orgia sportiva in TV, la storia, le regole, i record degli eroi. Se per esempio volete conoscere le regole, che so, dell'Hockney su Prato, qui le troverete e capirete perché guardare l'Hockney su Prato, come recita una rubrica di ogni sport. E poi naturalmente troverete i protagonisti, le storie, i medaglieri, insomma una vera brillante enciclopedia dello sport moderno. Un altro libro olimpico è quello del giornalista Alfredo Pigna, si intitola Il romanzo delle Olimpiadi, pubblicato da Mursia, 354 pagine, 16 euro. Questa è una brillante ricostruzione della storia olimpica, con molti aneddoti, con molte vicende curiose poco note, a partire da quella iniziale, dalla quale apprendiamo che fu Sant'Ambrogio, niente di meno, a far abolire le Olimpiadi antiche. Aveva convinto infatti l'imperatore Teodosio, che non solo voleva inimicare, a eliminare quello che riteneva un rito pagano. Dopo un sonno durato 1583 anni, le Olimpiadi, come sappiamo, ripresero, e di tutte le edizioni Pigna ci dà qui il racconto, per finire naturalmente con la presentazione di questa edizione, quella di Londra, che si conclude col ricordo di un grande atleta che non ne aveva persa una di Olimpiade, naturalmente non sempre per gareggiare, dal 1936, e cioè Edoardo Mangiarotti, scomparso proprio poche settimane fa. Per chi voglia allontanarsi poco e magari riscoprire la propria città, segnalo dei libri su Milano, cominciando da quello di Gabriella Curuvilla, Milano fin qui tutto bene, pubblicato dalla Terza, 180 pagine, 12 euro. In quattro mete fuori porta, via Padova, via Le Monza, via Sarpi e Corvetto, viene organizzato dalla scrittrice un viaggio in una Milano meno monumentale alla moda e colta in quattro storie di periferia che ci fanno conoscere personaggi inediti e insoliti, ma che ci fanno anche conoscere molto meglio di quanto ci consentano le cronache giornalistiche la grande città. E ne abbiamo una testimonianza nelle righe che vi propongo. Fino a poco tempo fa, qui c'era un parrucchiere italiano che si faceva chiamare consulente d'immagine, per marcare la differenza con tutti i parrucchieri cinesi di via Padova, che per uno shampoo, un taglio e una piega ti chiedono massimo 8 euro, come un happy hour. Per questa cifra, dal consulente d'immagine, non mi lavavo neanche i capelli. Infatti ha chiuso il consulente d'immagine. Prima del consulente d'immagine, qui c'era la tintoria di Marcella. Erano gli anni del boom dei supermercati, quelli. tutti a far scivolare il carrello tra uno scaffale e l'altro, ascoltando musica pop abbagliati da lampade al neon. «I'm all lost in the supermarket», cantavano i Clash in Inghilterra, mentre gli operai e commercianti italiani di via Padova se ne andavano, magari a fare i pensionati dentro le villette a schiera che punteggiano la campagna lombarda, e arrivavano gli extracomunitari a grattare quel che restava sul fondo. Abitando in case diroccate e rilevando negozi dismessi, permettevano a questa strada di vivere, ancora. Sparivano il calzolaio, la latteria e il barbiere, ma sulle loro ceneri, come fenici, aprivano i fruttivendoli e gli internet point cingalesi, i ristoranti e gli alimentari sudamericani, le macellerie e i kebab arabi, oltre ovviamente alle molte attività dei cinesi, che non gestiscono solo parrucchieri, ma anche negozi di informatica pieni di cellulari e computer, centri massaggi che quasi tutti pensano siano bordelli, e anche incasinatissimi bazar che vendono dalle parrucche, da utilizzare se il parrucchiere a 8 euro non ha fatto un ottimo lavoro, fino ai casalinghi e all'abbigliamento. Per i nostalgici della vecchia Milano, segnalo Là dove c'era, ora c'è, alla scoperta della città che cambia volto, edizioni Meneghine, 160 pagine, 16 euro. Questo è un libro con una serie di immagini che mettono a confronto Milano com'era e com'è, e vengono illustrati con 34 ritratti urbani della città di vari autori che fanno appunto risaltare il cambiamento di Milano. E chi voglia penetrare in questo cambiamento, anche al di là degli interventi più conosciuti, potrà leggere il libro di Maria Vittoria Capitanucci, Milano, le nuove architetture, pubblicato da Schirado, 124 pagine, 32 euro. Questo libro che aggiorna un'opera precedente della stessa autrice, Milano in pochi anni ha di nuovo cambiato volto grazie al fatto che si stanno compiendo molti interventi, non solo quelli monumentali, quelli famosi con i grandi quartieri che nascono, ma anche interventi pubblici, commerciali e residenziali meno noti, più quotidiani, che però danno il senso di una Milano appunto che cambia nelle sue viscere. Qui troviamo le immagini e una scheda di presentazioni dei progetti più significativi che illustrano appunto quei grandi e piccoli interventi urbanistici quali confermano l'impressione espressa dall'autrice che a Milano il permanere, anzi l'acutizzarsi della crisi economica, leggo dalla sua introduzione, abbia condotto a un ripensamento in termini critici, ma anche più etici, di ogni forma di intervento di nuova generazione. Andiamo a sud con Fabio Ceraulo, palermitano doc che dedica alla sua città il libro Palermo Nascosta, pubblicato da Dario Flaccovio, 154 pagine, 10 euro. Questa non è una descrizione, una guida della città, ma una serie di aneddoti, come li chiama lo stesso autore, che raccontano varie pagine della storia palermitana. Sono pagine curiose che testimoniano di una città intrisa di magia e di mistero, di identità straordinarie e contraddittorie, di ironia, follia e razionalità, come la descrive efficacemente nella prefazione Alli Traina. Il libro si riferisce a storie di spiriti, a leggende metropolitane, a memorie di guerra, ce ne sono anche alcune che risalgono al 1860, e a strane figure che magari meriterebbero di essere recuperate nella memoria collettiva a partire da quella dell'attore Franco Franchi. Un romanzo su Palermo è quello della palermitana Evelina Sant'Angelo, Cose da pazzi, è pubblicato da Einaudi, 328 pagine, 21 euro. In questo libro siamo nel quartiere Spina, brulicante di vita, di storie e anche di malaffare. Qui vivono Raffaele e Ricchi, due ragazzi popolani, attratti e affascinati naturalmente dagli stili di vita che essi considerano moderni anche a costo di infrangere la legge. In questo quadro irrompe a un certo punto un insegnante, soavemente convinta di dover spiegare ai ragazzi che il pizzo è una cosa diversa dal recupero crediti, come lo chiamano i suoi svogliati allievi. Uno di questi infatti le spiega: tu vuoi una sicurezza per il tuo negozio, per esempio, ecco, paghi per la sicurezza che hai avuto, e questo si chiama recupero crediti da parte di chi ti dà la sicurezza, che qualcuno sbagliando chiama pizzo. Ma invece è un mettersi d'accordo, diciamo, tu mi dai una cosa e io ti do un'altra cosa, un mettersi in regola tra persone civili, persone legali, ma senza bisogno delle leggi, ecco. E poi ci spostiamo decisamente per andare in Israele, questo che vi presento un libro decisamente sentimentale e culturalmente ispirato, si intitola Gerusalemme, pubblicato da Rizzoli, l'autrice Fiamma Nierenstein, prima giornalista della Stampa del Giornale, attualmente parlamentare, 214 pagine, 18 euro. Il viaggio nella città si intreccia in questo libro con la storia della famiglia e la vita in una città così difficile, segnata anche da attentati sanguinosi che hanno lambito la stessa famiglia dell'autrice. E il libro poi descrive la trasformazione di Gerusalemme e naturalmente parla delle vicende politiche che la vedono al centro di scontri, anche quando non armati, sempre molto duri. Il libro della Nierenstein è un libro appassionato, si potrebbe dire militante, lo riconosce l'autrice quando scrive che, raccontando la mia storia d'amore con Gerusalemme, io sostengo le mie ragioni di ebrea, e perciò contesta molto, per esempio, il negazionismo, cioè il tentativo di recidere il legame tra la storia degli ebrei e quello della città. Fortunatamente, aggiunge Nierenstein, ci sono tanti altri personaggi, anche palestinesi, in cui non si manifesta la terribile ansia, scrive, di divorare Gerusalemme, anche se la sentono parte di se stessi. E speriamo naturalmente che queste correnti possano avere il sopravvento. Restiamo a Gerusalemme con un libro di fumetti, anzi di graphic novel. L'autore è Guy Delisle, che è un fumettista canadese. Si intitola Cronache di Gerusalemme, pubblicato da Rizzoli Lisard, 336 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Francesca Martucci e Andrea Merico. Nell'agosto di 4 anni fa la famiglia dell'autore arriva a Gerusalemme, e naturalmente questo trasferimento dà modo all'autore di segnare, di sottolineare, di disegnare, di descrivere le contraddizioni della città e di viverne i momenti anche talvolta molto drammatici, senza eccedere in questo caso molto nella simpatia per Israele. E a questo punto il confettino. Vi segnalo l'iniziativa avviata dal Sole 24 Ore, che pubblica 20 libri di Gianni Rodari. La collana si intitola La biblioteca della fantasia di Gianni Rodari. Sono appunto 20 delle sue opere più importanti, illustrate da vari autori. Questa settimana, per esempio, da ieri è in edicola il libro dei Perché, illustrato da Giulia Orecchia. Ogni volume costa 7,90 euro. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Carmelo Auricelli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.